Sono stato una casa, ho imparato le attese. Sono stato una città, sono stato un paese. Ho acceso tutte le luci del centro soltanto per me. E ho preparato la cena per dare un profumo al silenzio che c'è. Se il tempo disordina i piani, stasera rimango con me. Quando la vita è un ascensore, fermo al terzo piano, io e quello nello specchio non ci conosciamo. E sento questo freddo che entra nel profondo. Una paura brucia dentro come lava di un vulcano. Io e quello nello specchio non ci assomigliamo. Ma quando fuori è inverno, è qui che io ritorno. È la parte di me che non conosco, il contrario di tutto, il mio lato opposto, il mio lato opposto. Sono stato un abbraccio e ho trovato mille scuse. Sono stato in guerra anch'io e senza difese. E ho spento tutti i rumori che ho dentro per sentire me. E ho messo via quelle frasi che usavo a coprire il silenzio che c'è. Giorno che passa più piano, stasera rimango con me. Quando la vita è un ascensore, fermo al terzo piano, io e quello nello specchio non ci conosciamo. E sento questo freddo che entra nel profondo. Una paura brucia dentro. Di me che non conosco, il contrario di tutto, il mio lato opposto. Ma il futuro è la strada che fai ogni giorno. Di me che non conosco, il mio lato opposto.